L'ultimo anno di un santo, 1858-1859. La crescente fatica del curato d'Ars. Nell'ultimo anno della sua vita il nostro santo vide passare nella chiesetta di Ars non meno di 100.000 pellegrini. Tutti avevano purtroppo il presentimento della sua prossima fine e accorrevano a lui per vederlo un'ultima volta, sentire la sua parola e possibilmente confessarsi da lui. Ma egli non poteva bastare a tutti e si pensò quindi di mandare ad Ars alcuni missionari in suo aiuto. L'affluenza fu tale che molti di coloro che volevano confessarsi da lui, piuttosto che da qualsiasi altro, dovettero attendere fino a 6 giorni per riuscire ad avvicinarlo solo per pochi minuti. Eppure il santo, per soddisfare tutti, stava in confessionale fino a notte alta, pur avendo cominciato il suo lavoro qualche ora dopo la mezzanotte. Era simile ad un pilota che, temendo il naufragio, lavora di remi con tutte le forze e saluta da lontano il porto sospirato. I pellegrini, assetati di perdono e di pace, non sembravano accorgersi che col loro desiderio implacabile davano il colpo di grazia a quel povero e vecchio prete già sfinito da una vita di abnegazione e incessanti fatiche. Egli non si era mai concessa mezz'ora intera di riposo vero e completo. Nel marzo 1859, 5 mesi prima della morte del santo, il giornalista Giorgio Seigneur visitò la sua chiesa e ne riportò queste impressioni. Il curato d'Ars confessava: «Mi ero appena inginocchiato quando sentii un singhiozzo che veniva dal confessionale e che si ripeteva ogni 10 minuti. Era un grido di sofferenza o un grido d'amore di Dio? La fatica strappava al petto oppresso di Don Vianney quel lamento che diventava poi come un grido di amore. Era come lo sforzo sensibile di un'anima oppressa dalle colpe terrene, desiderosa di aprirsi quel varco che l'avrebbe trasportata verso il cielo». I suoi catechismi non erano ormai altro che una sequela di esclamazioni e terminavano inevitabilmente in lacrime silenziose. Era difficile comprendere le poche parole che pronunziava a stento. Inoltre, v'era ogni tanto l'inconveniente di una tosse che sembrava un grido e che tradiva la sua sofferenza. Ma l'amore di Dio e l'ansia per la salvezza delle anime riuscivano a dominare la stanchezza. Quella tosse secca e straziante faceva pena a quanti lo udivano. Tutti lo compiangevano, ma l'uomo di Dio si rammaricava solo del tempo che la tosse gli rubava. Da ultimo, era ridotto a tale stato di debolezza che doveva bere un po' di latte ogni sera prima di coricarsi. Fu il solo cambiamento introdotto nel suo regime abituale e certi giorni non prendeva assolutamente nulla prima di quell'ora tarda. Un giorno entrò nella casa di Caterina Lassagne vicino alla canonica esclamando: «Mia povera Caterina, non ne posso più. Fermatevi un momento, signor curato, vi farò scaldare un po' di latte». «Oh, non fate nulla, ho bisogno solo di un po' di riposo», ed uscì per salire in camera sua. Intanto Caterina aveva preparato una tazza di latte e si affrettò a portarglielo, ma lo trovò sulle scale mentre scendeva già per passare alla chiesa, rinunciando anche al riposo. Caterina si fece coraggio e insistette: «Signor curato, prendete questo latte, non potrete resistere fino a stasera». «No, no, non voglio niente». «Signor curato, bisogna prenderlo». Don Vianney portò un dito alla fronte per indicarle il mal di capo ed aggiunse: «Su, su, lasciatemi passare». «Signor curato, non me ne vado». Ma con un gesto risoluto Don Vianney si era già aperta la strada e passava risoluto in cortile. Caterina lo seguì ostinata con la sua tazza di latte. «Ma vi vedranno i pellegrini», scongiurava il curato. Ebbe un bel resistere, ma infine dovette cedere. E quando fu sera confessò candidamente alla sua inesorabile infermiera: «Caterina, credo che senza la vostra tazza di latte non sarei arrivato fino al termine della giornata». A datare dal 1855, preoccupato del crescente lavoro che talvolta faceva dire al santo «la testa mi si confonde», Don Toccanier gli aveva ottenuto a sua insaputa la dispensa dalla recita del breviario quotidiano, ma egli voleva recitarlo ugualmente e continuò regolarmente quasi ogni giorno. Però dovette rinunciare all'abitudine tanto cara di dirlo in ginocchio, come aveva sempre fatto dall'epoca della sua ordinazione al suddiaconato. Nel novembre 1858, uscendo un giorno dalla sala ove erano riunite le allieve della provvidenza, cadde lungo le scale e si fece una ferita ad una gamba. Questa ferita, trascurata, si cambiò in ulcera e non guarì se non dopo lungo tempo. Ancora penitenze. Ciò nonostante volle continuare a darsi la disciplina, ma poco manco non cadesse in deliquio. Era allora desolato al pensiero di non potere più flagellarsi come prima. Alcuni giorni innanzi che morisse, racconto il signor Paget, mi aveva dato una commissione per Lione e quando stavo per partire mi incaricò di comperargli una catena lunga 2 piedi, un po' più grossa di quella di un orologio, dicendo: «Se non me la portate sarò costretto a servirmi di un'altra più ruvida che ho qui». Era quella che usava tutte le mattine. Non era più il tempo in cui poteva dire: «Ho un buon cadavere e quando ho preso un poco di cibo e dormito 2 ore posso cominciare di nuovo la mia giornata». Ora, quando non ne poteva più, si accontentava di dire: «Riposeremo nell'altra vita». «Ma, signor curato, dovete avere un po' di riguardi», non cessava di raccomandargli il conte di Garez. «Oh, non importa», rispondeva con un sorriso, «il buon Dio accomoderà ogni cosa». Passava le brevi notti voltandosi e rivoltandosi, madido di sudore nel suo duro e piccolo giaciglio, ed ogni mattina, nessuno lo crederebbe se non avessimo la testimonianza di frate Atanasio, faceva uno sforzo incredibile ad alzarsi prima dell'alba e sentiva forte ripugnanza a recarsi in chiesa ove ricominciava il suo penoso ministero. «Siamo sempre da capo», diceva con un gemito. Ma nonostante l'insorgere spontaneo di queste ribellioni naturali, questo vecchio di 73 anni non si permise mai di prolungare un riposo che non era tale e ci offre così un altro meraviglioso esempio della sua incomparabile esistenza. Un giorno confessò: «Avevo sonno stamattina, ma non ho esitato ad alzarmi. La salvezza delle anime è una cosa molto importante». E già sfinito dalla fatica si recò al confessionale all'ora solita. «Un giorno», racconta Don Toccanier, «mi confessò che nell'andare in chiesa era caduto 4 volte e si era rialzato con grande fatica. Glielo ricordai un'altra volta in cui mi sembrava molto stanco ed egli mi rispose: «Oh, i peccatori finiranno per uccidere questo povero peccatore». Verso le 4 o le 5 del mattino e così anche verso le 3 o le 4 del pomeriggio provava un gran bisogno di dormire. Per quanto cercasse di resistere e di far scorrere tra le dita i grani della sua corona, finiva qualche volta per assopirsi. Le persone caritatevoli, che se ne accorgevano, interrompevano le loro confessioni per lasciargli qualche momento di riposo. In questo periodo di eroismo a getto continuo, fece a Don Toccanier queste confessioni degne di ammirazione perenne. «Padre mio», gli aveva chiesto il suo vicario, «se il Signore vi lasciasse scegliere tra l'andare subito in cielo o il rimanere ancora a lavorare come fate per la salvezza dei peccatori, che cosa scegliereste?» «Resterei». «Ma pensate che in cielo i santi sono felici, non soffrono più, non sono tormentati dalle tentazioni». «Sì, sono felici i santi, ma vivono di rendita perché hanno già lavorato bene. Dio punisce la pigrizia e premia il lavoro. Ma non possono più, come noi, conquistare delle anime a Dio mediante il lavoro e la sofferenza. Se il Signore vi lasciasse qui fino alla fine del mondo, avreste tanto tempo a vostra disposizione. Continuereste ancora ad alzarvi così presto?» «Sì, amico mio, mi alzerei sempre a mezzanotte. Non è la fatica che mi spaventa. Io sarei il prete più fortunato se non mi tormentasse il pensiero di dovermi presentare al tribunale di Dio come parroco». E 2 lacrimoni gli solcarono le guance silenziosamente. Il progetto di una nuova chiesa. Intanto sentiva sempre più il peso delle sue sofferenze. Ma simile al sole, che vicino al tramonto risplende di raggi che sembrano più infocati, la sua anima irradiava uno splendore più intenso quanto più si avvicinava al termine della prova. Per quanto il suo corpo fosse tormentato dal dolore, il suo spirito rimaneva libero ed il viso era sempre calmo e sorridente. Nulla tradiva agli occhi dei pellegrini lo spasimo interiore, perché quando si sentiva al colmo della sofferenza, resisteva fino al momento in cui si accorgeva che era circondato solo da persone conosciute già consapevoli delle sue miserie, ed allora, lasciandosi cadere su di una sedia, diceva mitemente: «C'è proprio da ridere». Ma sempre intraprendente ed attivo, verso la fine del 1858, aveva fatto predicare una missione nella sua parrocchia. «Questa volta riuscirete a convertirci», diceva al predicatore Don De Scott. Nel medesimo tempo, insieme a Pietro Bossan, studiava il piano della bella chiesa che voleva costruire in onore di Santa Filomena. Regolò egli stesso il conto dell'onorario dovuto all'architetto, offrendogli un magnifico rosario. L'imperatrice Eugenia, commossa per ciò che sentiva raccontare sul curato d'Ars, gli aveva fatto consegnare un rosario che aveva la croce, il cuore, gli anelli della catenina, i grani del Pater d'oro e i grani delle Ave Maria di corallo. La croce di questo rosario recava, in un medaglione centrale ricoperto di vetro, alcune reliquie di San Giovanni Evangelista e di San Pietro in vincoli. Ma siccome la nuova costruzione sarebbe stata molto costosa, il 2 aprile 1859 aprì una sottoscrizione nella quale egli figurava per primo con 1000 franchi e nelle ultime righe che ci ha lasciato scritte di suo pugno diceva: «Pregherò il Signore per coloro che mi aiuteranno a costruire una bella chiesa a Santa Filomena». Verso la fine dello stesso mese radunò gli uomini che avevano fatto la Pasqua. La festa cadeva in quell'anno il 24 aprile e parlò loro dallo stesso modo di Mosè che prima di morire aveva raccolto il popolo di Israele. «Figli miei», disse egli fra l'altro, «com'è bella l'azione che avete compiuta! Adempiendo al vostro dovere pasquale avete preparato a Dio la dimora del vostro cuore e state per preparargliene un'altra fabbricandogli una bella chiesa. In altri tempi, fratelli miei, venivo io a visitarvi e voi non mi avete mai rifiutato nulla. A voi il mio ringraziamento. Oggi è il missionario che viene a visitarvi, ma è come se fossi io, perché lo accompagno con tutto il cuore. Ah, ci sono ancora peccatori nella parrocchia e bisogna che io me ne vada perché un altro possa convertirli». Era il suo umile nunc dimittis. Difatti molti videro nel suo discorso la parola di addio e compresero che la morte del loro curato non doveva essere lontana. La pace della sera. Se qualche volta sembrava temere ancora i giudizi di Dio e se tremava al pensiero di morire curato, non era però incerto sulla sua vera vocazione. Non aveva forse fatto tutto quello che dipendeva da lui per lasciare il suo posto? Era ormai persuaso che solo Dio lo avrebbe tolto da Ars, e per questo il suo timore era temperato da una confidenza piena di amore. «Nel suo ultimo anno», dice Marta di Garez, «venne al castello, ci parlò dell'amore di Dio e pianse. Spesso anche dal pulpito, dopo aver cominciato un altro argomento, ritornava a considerare Nostro Signore presente nella Santissima Eucaristia, e il fascino per la presenza reale di Gesù aumentò in modo ancora più sensibile verso il termine della sua vita. Si interrompeva, versava lacrime e la sua figura diventava radiosa. Allora non si udivano che esclamazioni d'amore. Con la lotta continua aveva acquistato la calma dei forti. «Durante la mia prima malattia», confessava ingenuamente, «vi era ancora qualche cosa che mi turbava, ma ora non vi è più nulla». Erano scomparse anche le prevenzioni degli uomini, perché ora tutti avevano per lui il massimo riguardo ed il suo vicario, Don Tocanier, gli dimostrava apertamente il suo cuore di figlio. Don Vianney aveva un solo rimprovero da fare a lui e ai suoi confratelli. Diceva che erano troppo premurosi per il povero curato d'Ars. Un giorno in cui ripeteva questa sua osservazione al vicario, Don Tocanier ebbe la felice idea di rispondergli: «Sta scritto, onora tuo padre e tua madre, se vuoi vivere lungamente sulla terra». Il sorriso radioso che illuminò il volto di Don Vianney dimostrò pienamente come lo avessero colpito quelle parole. L'isolamento, le infermità, la noia di vivere finiscono per inasprire molti vecchi che, diventati insopportabili a se stessi per le proprie miserie, non sanno sopportare neppure il prossimo. Ma Don Vianney conserva fino alla morte una bontà squisita ed indulgente. Cinque mesi prima di morire ricevette due strane visitatrici, una delle quali era Paolina Maria Filomena Jaricot, ridotta in condizioni miserevoli ed affranta. Erano giunte sotto il vento gelido di tramontana e la neve. Erano letteralmente assiderate. Egli le ricevette nella sua camera e discese a cercare un poco di paglia con qualche arbusto per accendere il fuoco, ma la paglia era umida e il fuoco si spegneva appena acceso. «Ve ne prego», disse Paolina Maria Jaricot, «non tentate più di rimediare al freddo, ci sono abituata. Piuttosto riscaldate la mia povera anima con qualche scintilla di fede e di speranza». Il santo Dars consolò quell'anima tanto provata per mezzo della quale Dio aveva fatto grandi cose, ma il colloquio fu breve perché vi erano altri pellegrini che assediavano la canonica e reclamavano il loro confessore. Don Vianney consegnò a Paolina Maria Jaricot una piccola croce di legno, simbolo muto della rassegnazione alla santa volontà di Dio, e si allontanò dopo di aver benedetto le sue visitatrici inginocchiate ai suoi piedi.